Sì, allora, l'intervento di Francesco Gennari per il Laboratorio degli Angeli è un intervento che si articola lungo tre direttive. Un nucleo importante, quasi muscolare potremmo dire, di opere grafiche, che sono circa 21, che si sviluppano all'interno di questa grande parete nella sala dell'ex oratorio di Santa Maria degli Angeli. La parte invece fotografica e poi questa scultura nuova che è stata appunto prodotta in occasione della mostra, in collaborazione con il Laboratorio degli Angeli, che poi è anche l'elemento che dà il titolo alla mostra, perché mi guardi così. Perché E quindi da questo titolo perché? Perché questa scultura? è nella prassi di Francesco lavorare con opere che siano una sorta di dispositivo che viene attivato, relazionale, che viene attivato attraverso il titolo. Il titolo ci fornisce una chiave di lettura all'interno di questi elementi, in questo caso due solidi geometrici realizzati in bronzo, che rappresentano questo ideale aperitivo, perché sono il calco di liquidi all'interno di due bicchieri, un calice di Martini e un calice di vino. E il perché mi guardi così è quel momento della relazione in cui ci sia una sorta di crisi, di salto nei rapporti, o positivo, quando si intende una sorta di scatto, diciamo, di interesse, o negativo, in cui puoi portare questa frase ad altri lidi della conversazione. Quindi ci sono tre direttive diverse, strutturate in tre modi diversi, e tutte le altre opere invece non sono inedite o sono, lo sono? No, le altre opere non sono inedite, però io non parlerei di tre direttive diverse, perché poi il lavoro che fa Francesco è tutto legato a una sua concezione del ritratto e dell'autoritratto in particolar modo. Sono tutte legate a una sorta di sono opere che si legano a una sorta di proiezione del sé, un sé che non è un sé indicativo all'interno proprio della figura di Francesco, perché lui non si autorappresenta mai nelle sue opere. Quando lo fa, diciamo che non ci sono quei tratti peculiari come può essere il volto, che vanno a definire nel dettaglio la sua figura, ma è un autoritratto intendendo la sua figura come una sorta di elemento che si relaziona col mondo esterno, un rapporto io-mondo esterno che si concretizza nell'autoritratto. I disegni sono tutta una serie di, anche se vogliamo, autoritratti, perché sono un lungo flusso di coscienza di quello che è la sua mente, di quello che è il suo pensiero e come ha rielaborato il rapporto con il mondo. E l'autoritratto su menta parla da sé, appunto, anche nel suo titolo. E poi appunto questa scultura, che è una relazione, dicevamo prima, fra due elementi, di cui il Martini è un elemento classico che identifica l'autore.